Europa 24. Buongiorno Anna Marino e dalla redazione. In un discorso duro, quello di Juncker, il primo dell'Unione, del Presidente della Commissione Europea a Strasburgo davanti alla plenaria del Parlamento Europeo durante l'appuntamento annuale con le grandi sfide che deve affrontare l'Unione Europea, ha lanciato un forte appello: manca l'Unione e manca l'Europa, e ha parlato di come il vecchio continente deve affrontare la questione immigrazione. The first priority today is and must be the refugee crisis. La priorità oggi deve essere l'emergenza rifugiati. È il tempo dell'azione, ha detto. Dobbiamo accettare le persone in fuga dall'ISIS sul territorio europeo. E poi Juncker ha aggiunto: sino a quando ci sarà la guerra, nessun muro, nessuna barriera fermerà questa massa di rifugiati. Bisogna evitare la demagogia, mettiamoci noi nei loro panni. Quanto pagheremo per rifarci una vita? E ancora ha aggiunto: gli standard europei, le regole sulla migrazione ci sono, ma sono gli stati membri che non le hanno applicate. Ora devono rispettarle. È in gioco la credibilità dell'Europa. A questo punto un forte richiamo e un affondo. Sentiamo. Too much finger pointing in the past weeks. Molti hanno puntato troppo il dito nelle scorse settimane. Gli stati membri hanno accusato gli uni gli altri di non aver fatto niente, la cosa sbagliata o di non aver fatto abbastanza. Il numero uno della Commissione europea ha poi sottolineato: anche Bruxelles è stata accusata, lo è sempre quando gli stati non fanno il loro lavoro. Perciò la Commissione europea propone un meccanismo di redistribuzione permanente che ci permetterà, dice, di affrontare situazioni di crisi in modo più agevole in futuro. Gli standard devono essere aumentati. Intanto, dice Juncker, dobbiamo permettere ai richiedenti asilo di lavorare mentre le loro domande vengono trattate. Sentiamo. The Commission, the Parliament. La Commissione, il Parlamento, il Consiglio hanno affermato che è necessaria un'agenda europea sull'immigrazione. Noi l'abbiamo proposta in maggio. Italia, Grecia e Ungheria non possono essere lasciate sole. Si pensa a rafforzare Frontex, ma non all'abolizione di Schengen. La proposta, appunto, di rendere il meccanismo permanente prevede il ricollocamento di 160.000 persone. E poco fa la notizia che il governo tedesco appoggia ed è assolutamente in linea con Juncker. Infatti, mattinata contemporaneamente a Juncker, la cancelliera Merkel aveva parlato di emergenza immigrazione in un discorso al Bundestag, e lo ha fatto al solito con i suoi toni pragmatici. Coloro che cercano asilo e che vedono riconosciuto il diritto d'asilo, ha detto Merkel, hanno bisogno del nostro aiuto e bisogna integrarli velocemente, e altrettanto velocemente devono imparare il tedesco e avere un lavoro, appunto, velocemente. Diventeranno cittadini tedeschi, così ha concluso la cancelliera Merkel. Ed è tutto, un saluto da Anna Marino. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.